Buonasera, buonasera, buonasera. Questa è la puntata speciale di Banda Armata, la presentazione, inaugurazione del nuovo anno di Fuori Onda Radio, insieme agli amici di Mozilla Bros. Buonasera. È una serata speciale in cui inaugureremo questa seconda stagione di questa radio che ancora è allo stato embrionale e che spera tantissimo di crescere nei prossimi tempi. Una radio che è nata all'incirca un anno fa e le cui... Qui ci sono ancora lavori in corso assolutamente pericolosi, volano sedie, volano giubbini. Allora, dicevamo, inaugurazione di questa nuova stagione 2011-2012. Ricordiamo innanzitutto le nostre trasmissioni in diretta tutti i giovedì alle ore 18.30 sulla web radio Fuori Onda Radio, poi in differita il venerdì alle ore 17 su Radio Ciroma 105.7 e su transizione di fase alle ore 21.20, mi dicono dalla regia. Questa sera abbiamo insieme a noi, insieme alla trasmissione di Banda Armata, siamo felici di ospitare i nostri Mozilla Bros, direttamente anche loro da Radio Ciroma, con cui festeggeremo questa serata speciale. Innanzitutto vediamo di presentare il nostro progetto di Fuori Onda Radio. Recita il nostro manifesto: un progetto che si propone di creare e stimolare momenti di controcultura, di informazione, di socialità, di confronto e di intrattenimento, liberando creatività e saperi. Un progetto che si propone di crescere, di ospitare anche altre trasmissioni che non siano soltanto Banda Armata, la trasmissione del collettivo P2, e Mozilla Bros, la trasmissione dei nostri fratelli, ma anche altre novità, altri progetti, altri esperimenti che possono essere possono è arrivato anche lo suo bello Pecurillo. Dicevo, vorremmo, ecco qui volano ancora pseudo sedie, vorremmo ancora ospitare nell'immediato futuro anche altre iniziative, altri progetti, altri esperimenti. Ecco perché quindi noi siamo aperti assolutamente alla partecipazione di tutti coloro che vogliono condividere una trasmissione, un progetto, la diffusione di saperi o di controinformazione dalle frequenze di Fuori Onda Radio. Questa serata si propone non soltanto di pubblicizzare le nostre trasmissioni, ma soprattutto di creare quella base per poter crearne di nuove, per poter creare altre occasioni di confronto. La radio, ricordiamo, dove nasce? Nasce nella nostra aula, nell'aula P2 occupata, Cubo 40C, Ponte Pietro Bucci, Università della Calabria. E nasce a seguito, diciamo, della decisione del collettivo di creare una nuova forma con cui veicolare i nostri contenuti, anche quelli altrui, nella speranza, per l'appunto, di creare una rete che possa gettare le basi per per un coinvolgimento di tante realtà oltre alla nostra. Quindi un progetto che si espande dal mondo universitario, però che non si limita al mondo universitario, che invece vuole estendersi all'esterno, quindi che vuole contrastare il potere, diciamo, dei mass media che già noi conosciamo e che fanno informazione di regime. Mass media, mi correggono sempre il nostro Peppe Launch, che dalla regia sta nell'ombra e corregge. Bacchetta, il nostro Luca Abate, che fra poco ci introdurrà alla sezione della rassegna stampa. Banda Abate, la sua rubrica mi aiuta, mi viene in supporto. Dunque, il progetto nasce all'università, ma ha voglia di estendersi. Non per niente abbiamo cercato da subito di trovare la collaborazione di altre realtà come Radio Ciroma, che è una delle radio di Cosenza, e Transizione di Fase, che invece opera in quel di Reggio Calabria. Da dove nasce quindi questa radio? Nasce dall'esigenza del collettivo di trovare un nuovo veicolo per poter far uscire i propri contenuti e le proprie idee. Un nuovo modo, diciamo, di fare informazione che si contrappone a quella che è l'informazione di regime, come dicevo poc'anzi. Questa sera abbiamo l'occasione di condividere questa serata con i Mozilla Bros che al nostro fianco stanno cominciando a preparare i loro divertenti interventi. Ebbene, chi segue i Mozilla Bros sa chi siamo, chi non sa chi siamo, siamo uno seduto su un amplificatore, uno seduto su una sedia e uno seduto su un case. Razzinga! San Pietro arriva coi pugni teologici. Razzinga, Razzinga, tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se sei nemico prega, è già finita la chiesa, batte l'indice. Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né da italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga, Razzinga, rosario atomico, Razzinga, lama del diavolo, Razzinga, doppio amen, forte, con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga, Razzinga. Tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà. Razzinga, Razzinga, bombe gnostiche, Razzinga, luce divina, Razzinga, spada teologica, Razzinga, sermone perforante, Razzinga, incenso atomico, Razzinga, pugno teologico, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, doppio amen, Razzinga, ora pro nobis, Razzinga, acqua santa, lama diabolica, doppio rosario. Ecco, adesso siccome lui ha l'esigenza di farlo, ovviamente, al mio tre, gentilmente, tre, vabbè, dobbiamo fare la presentazione ufficiale del nostro caro rassegna stampista, il signor Luca Abate, e adesso diamogli la carica con la grandiosa apertura che abbiamo preparato per lui. Grande Abate. Abate, dica, banda Abate, dove? Rassegna stramba, il tappeto sonoro di Luca Abate. Buonasera a tutti, ringrazio sempre per le mitiche presentazioni. Per le mitiche presentazioni che mi fanno sempre, Gustavo, non me la fa mai mancare. La presentazione. La presentazione, cosa avete capito, maliziosi? Partiamo subito con gli articoli di freschi di giornata. Freschi di giornata. E cosa ti serve? Il giubbotto è là per Pierpaolo. Questi sono piccoli problemi. Sono piccoli problemi tecnici che si hanno durante le dirette, signori, con cena sociale. Partiamo subito con... cioè, ricordiamolo sempre. Partiamo subito quindi con la nostra rassegna stampa e partiamo con riff con ambiente e soprattutto partiamo con i rifiuti. Operazione Black Garden, in manette il sindaco di Casignano. Casignano, dove si trova Casignano? Reggio Calabria, provincia comunque, no? non andiamo a prendere sottigliezze inutili, dove si trova, dove non si trova. Reggio Calabria, provincia. È stata compiuta proprio oggi un'operazione dei carabinieri e del NOE di Reggio Calabria riguardante un traffico illecito di rifiuti. Sono finiti in arresto 4 persone, di cui uno è addirittura il sindaco Cirinò. Secondo l'accusa, le persone coinvolte avrebbero messo in atto operazioni illecite allo scopo di risparmiare il denaro necessario per un corretto smaltimento del percolato, per la ricopertura e la compattazione giornaliera dei rifiuti e anche per la manutenzione della discarica. I carabinieri hanno sequestrato sia la discarica, valutata circa 10 milioni di euro, spiccioli si può dire per una discarica, e anche la società che la gestisce o che la gestiva, visto che è stata sequestrata, la ZM, per un valore di soli 3 milioni. Quindi già si ha un sequestro di 13 milioni di euro. A causa, poi c'è anche di più, che a causa dell'assenza delle recinzioni, bovini e ovini pascolavano, Gustavo, pascolavano liberamente nella discarica, nelle aree contaminate. Insomma, dal percolato. Delle ricotte, insomma, percolate. Insomma. Belle ricotte, uscite, proprio roba, anche roba. Fiscelle, insomma. Compa, roba sostanziosa, roba buona, tutta roba buona calabrese. E quindi nell'inchiesta, oltre ai sindaci, al sindaco Cirinò e alle 4 persone, sono indagate anche il sindaco di Gioiosaro Ionica e il direttore della società Leonie, che gestisce la raccolta dei rifiuti. Ora andiamo al nostro evergreen della discarica di Alli, che ormai è un nostro punto fermo, la discarica di Alli, non mi sbaglio. Fermo, no, no, no, no, fa battute. Prima eravamo in due a ballare l'Alli Galli, ora siamo in uno a ballare. E tu faccio sempre, tu mi cerchi, tu fai. Mi scuso con tutti, perdonatemi se potete. E comunque, la discarica di Alli, ormai i rifiuti puzzavano di truffe, infatti si parla proprio di miniera d'oro per il gruppo Gavioli, o Gavioli, penso che si legga. Sinceramente non lo so. Tu come dici? Gavioli? No. Comunque, una bomba ecologica per la città. I due opposti punti di vista ci sono sulla questione, sulla discarica di Alli. Dopo tutti gli indagati che ci sono stati, si sono susseguiti in questi giorni, ora comincia il vero e proprio iter giudiziario. Nel frattempo la discarica resterà chiusa, quindi i rifiuti vengono spartiti tra Lamezia, tra la discarica di Lamezia Terme, una parte della discarica di Pianopoli, e l'altra parte rimane in Cassonetti. È buono, insomma, per fare la fermentazione, insomma. È molto salutare come cosa, l'ha detto, quindi tutti i complimenti. E in più la procura contesta agli uomini di Enertec, la famosissima società Enertec, l'ipotesi di tentata truffa, e infatti i tre uomini accusati avrebbero presentato fatture false su rifiuti smaltiti in maniera non lecita, ossia illecita. Oppure non smaltiti in maniera lecita. Vabbè, si può mettere come però così si fa zioso, se ci smaltiti in maniera non lecita, in maniera illecita. Invece in maniera non lecita è una cosa più leggera, così. Come dici? Mi fido. C'è illecita, il bucita, tante cose. Rimango allibito a volte su queste battute, non ci posso fare niente, mi dispiace. E comunque ora andiamo a constatare una vittoria rispetto alle manifestazioni di Crotone del 12, ossia il commissario Melandri, che ormai era indagato, si è dimesso. Gioia, dobbiamo gioire su questo. Cioè, noi gioiamo, ovviamente, tripudi di gioia e alleluia, direi, per queste cose. Però ancora abbiamo tanto da fare, perché non è detto che lor signori infatti. Comunque, il commissario per il superamento dell'emergenza dei rifiuti nel territorio della regione Calabria, Graziano Melandri, si è dimesso dall'incarico. Abbiamo già detto prima, lo ripeto ancora per ribadire che si è dimesso ormai. E lo rende noto un comunicato stampa dell'ufficio del commissario. In più va anche detto che le dimissioni sono state presentate al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Gabriele, ricordi il suo nome, Gabriele, perché è un artista questo qua, perché dice che esprime tutta la riconoscenza mia personale e del Dipartimento per l'attività efficacemente svolta e per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico. Hai capito tu? Che l'incarico si è svolto, insomma, in maniera buona, dice lui. Sappiamo come va a finirsi cose, purtroppo.

balleremo leggeri sull'aria di un Cambiamo lo... Vai, che siamo, ci siamo. Sì, vai. Ci siamo. E dove siamo? Allora, siamo alla più occupata, il collettivo. Quindi, no, e allora, ci hanno fornito degli sfondi per la serata. No, secondo me c'è troppo ritorno. Bassa. Non è così essenziale. Tanto abbiamo provveduto agli sfondi musicali da noi. Ok, raga, basta. E niente, siamo i Mozilla Bros, noi non ci siamo presentati alla fine, abbiamo sentito la storia di Banda Armata, cose, noi ancora non ci siamo presentati, beh noi nasciamo grazie a un Matteo Croce, un Natale vinto tempo fa, un tigre, e fondamentalmente siamo molto inutili. Sì, cazzeggiamo. Serviamo per lo più a nulla. E quindi sì, era la storia di Fuori Onda Radio, però si parlava anche di trasmissioni, cosa facevate voi, e noi non facciamo nulla. Ma noi abbiamo almeno i nostri sfondi, così iniziamo a caratterizzarci. Abbiamo Abbiamo Great Balls of Fire. Quindi, bene, mentre aspettiamo lo sfondo, volevamo parlare un po' di dove siamo noi solitamente. Siamo su Radio Ciroma, siamo anche su FM, su 105.7 ogni mercoledì alle 7, giusto? Ogni mercoledì alle 7 e poi anche in replica proprio qui su Fuori Onda Radio, ogni venerdì alle 16 circa, come abbiamo detto prima con Pierpaolo, sempre circa, dipende dai ritardi o vari problemi in streaming o i ritarli. E ovviamente potete tenervi in contatto con noi sia con il nostro account Facebook, che Mozilla Bros, dobbiamo cercare la pagina di Mozilla Bros, possiamo chattare, fa. E non che un account di Twitter. Abbiamo un appello da fare, purtroppo il cantante ha perso un pallone. E noi abbiamo perso il cantante. Sì, quindi. Se volando i cubi dell'unica, capitate sopra il cubo 41, c'è un pallone. È un rombo. No, lui per rombo intendeva le chiavi del cubo. Ah, ok, le chiavi del cubo, va bene. Così. Beh, non dovevi dire qualcosa, illustrarci? No, però c'è un computer con uno sfondo nero con scritto 5 minuti e 33 secondi. Tagli il filo blu. Ma sai che comunque in cute alquanto timore, dato che ci stanno praticamente tagliando. Ok. Che poi noi in trasmissione 5 minuti e 21 secondi di dialogo interrotto non abbiamo mai fatto. Rovescia. E infatti è la rovescia, penso sia partito al massimo da 6-7. È un countdown. Comunque, noi siamo i Mozilla Bros, siamo, come non hanno detto loro, in missione per conto di Dio, e siamo qui ospiti della radio Fuori Onda Radio, lotta studentesca nell'Edere. Non capisco cosa significa. Comunque, solitamente parliamo di news nerd, mandiamo ottima musica blues, tipo il sottofondo musicale che adesso potete ascoltare e che noi non stiamo ascoltando. Parliamo di cose nerd, e quindi ci sono i nostri nerd che ci illustreranno qualcosa adesso. Ah, sì, perché siamo anche una trasmissione nerd. Trasmissione nerd che però monologhi, mancano ancora 4 minuti e 32 secondi. Non sappiamo cosa. Ma lo sai perché? Perché i soviet sono abituati a fare sproloqui, capito? Prima parla, ma. Noi diciamo solo ciotie, chi palle, no? Sì. Quindi, visto che non abbiamo lo stack musicale, staremo per fare una lettura. Ah, anche noi facciamo le letture, perché mica ora è solo prerogativa dei soviet. Tipo dal Vangelo secondo Ono Sendai 15-17. Per esempio, è un soggetto politico reazionario. La Pirate Box è un soggetto politico reazionario rivoluzionario. Ah, infatti, cioè, i nostri ascoltatori sanno la Pirate Box, anche le vicende legate alla Pirate Box. Però chi non lo sa, possiamo dire che stiamo iniziando pure a contaminare un po' l'aula con spargendo vari gadget. Tipo Natale, spiega la Pirate Box. Sì, nel frattempo che Garuf ci passa le sue rassegne news, la Pirate Box è sostanzialmente un router acceso che crea una rete wireless e permette di condividere dei file che possono essere, vorrei dire, una rete wireless non accessibile dall'esterno o non interfacciabile con l'esterno. Sì. Rookie router. router e insomma crea starete wireless dove la gente può caricare e scaricare file senza accedere a internet, e quindi quindi non rompi le palle a internet, però. Quindi possiamo avere internet senza avere internet. Bravo, perché uno si fa internet solo per scaricare, cioè parliamoci chiaro. Wireless. Ma diciamo che il vino che ha bevuto Gustavo è eccessivo. Bah. Babbo, passiamo alle news nerd con Marco Pecorello Garolfo che ci allieterà delle sue. Iello Pecorino. No, no, oggi stupiamo. Oggi vi stupiamo. Il reparto nerd di Mozilla Bros vi stupisce. E passa dalle news, queste frivole news, a della letteratura nerd di tutto rispetto. Come tutti sapete cos'è MAN, vero? MAN cos'è? È il programma che, se siete su Linux, ti dà il manuale del programma che stai per utilizzare o, vuoi utilizzare. Esatto, sono appunto le pagine di manuale. MAN sta per manuale. So che sembra strano. Ricordiamo Ono Sendai che cercava il MAN dell'ovetto Kinder per montare una giraffa. Oh, cose del genere. Ad ogni modo dentro Linux c'è un utilissimo programma. Penso che sia alquanto essenziale. Diciamo che potrebbe essere la nuova nostra rassegna con tutte le cose inutili che potete fare con i comandi di Linux. La rubrica nasce ora, ragazzi, la rubrica nasce ora, cose inutili con Linux. Questo qua è il programma Yes. Cosa farà il programma Yes? Dove lo andiamo a capire? Dov'è la... Vediamo se hanno studiato. Cioè, capito? Dove vanno a prendere cosa fa Yes? Ah, ma lo facciamo serio? Nel MAN. Nel MAN, esatto. Quindi, se voi scrivete MAN Yes, vi verranno le istruzioni. Allora, quindi, che vi dice semplicemente questo programma Yes? Semplicemente stampa una stringa sullo schermo fin quanto verrà ucciso. Che. Però non è semplice la tua tecnica, infatti in questo scopo stamperò una stringa ripetutamente fin quando non sarò ucciso. C'è un grande insegnamento, non solo i soviet nei grandi maestri. Anche noi abbiamo per esempio l'insegnamento di un comando Yes. Yes, quindi se tu sei uno Yes, porterai il tuo verbo, appunto la tua stringa, fin quando sarai ucciso. All'amore. E ci ricorda un personaggione tipo Gesù, che per esempio per 33 anni ha fatto Yes, sono il figlio di Cristo, bla bla. Quindi, se avete seguito anche le altre puntate, sapete cos'è una pipe e volete ridirigere tutto il testo della Bibbia su Yes, sappiate che avete il vostro clone Linux di Gesù Cristo. Se dopo 33 anni il computer muore, state attenti, non mandatelo subito in garanzia, che dopo 3 giorni potrebbe aggiustarsi. Io direi che possiamo 15, partire 16, con un altro. Wow! 12, dai, un altro 15, stacco. 10, 9, 8. Taglia il filo blu, taglia il filo blu. 6, 5, 6. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nail guns and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hills and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. goodness, goodness great balls of fire. Dopo Great Balls of Fire adesso c'è Chuck Berry con Maybelline. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out of run my V8 4. Like doing about 95, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Dunque, dato che Natale ci dà pezzi di un minuto, non abbiamo i tempi per riordinare le idee. Comunque c'era Garuf che voleva dirci qualcosa. Sì, il pallone è stato ritrovato. Benissimo, perché voi non sapete la faccenda. Qua siamo all'università, c'era un pallone gentilmente regalato a Natale da una società sportiva di calcio, che insomma è stato smarrito dal cantante e poi è stato smarrito il cantante. Abbiamo trovato sia pallone sia cantante. Io vedo il pallone, il cantante è nulla. Smarrito nuovamente. No, vabbè, sentiamo la sua presenza comunque permeare l'aula e comunque l'università. Lo sentiamo sempre tra di noi. Buonasera. Vedi, anche per Paolo, il cantante è in te. Io mi preoccuperei di questo fatto. Dunque, siamo tornati noi Mozilla Bros. Siamo tornati con la nostra esuberanza, il nostro brio. Abbiamo qualche notizia nerd. Il nostro Marco Garolf, il nostro Marco Mosendai ci passeranno qualche notizia. Innanzitutto c'è da dire che il nostro appello è stato ascoltato e il pallone è ritornato. E adesso potremo avere un'intervista in diretta con il salvatore del pallone. È stato duro, uno sporco lavoro. Il pallone era lì sul tetto da solo. Ricordo che senza cantante il pallone era da solo. Il ragazzo ha vanamente chiesto attenzione rispetto al pallone e nessuno gliel'ha data. È brutto come elemento questo qui da registrare. È stato ritrovato anche il cantante, che è fuori dall'aula. Abbiamo visto, abbiamo le prove, quindi è qui con noi. Puoi continuare, Salvatore. Cioè, l'appello è questo: più palloni meno scopelliti. Cioè, basta, che cazzo, dai. Nel senso, stare qui rinchiuso a parlare di scopelliti è triste. Salire su un tetto e recuperare un pallone potrebbe diventare una cosa gioiosa, liberatoria e a tratti comunista. O no, Marco? Però ricordati che fra il gioioso e il comunista è... dura, diciamo che c'è di mezzo un festino. Infatti sì, infatti poi potremmo anche fare una lettura del manifesto del festino comunista. Esatto, basterebbe sostituire con grep parti, cioè la traduzione da parti, che può diventare sia partito sia festino. Sì, però non è il momento di svelare, perché poi i sovietici in ascolto dovrebbero avere una crisi di nervi, perché hanno capito che per anni hanno seguito un dogma sbagliato e non si può. Però c'è... Volevo aggiungere una cosa, anche per tranquillizzare chi ci sta ascoltando. Il pallone sta bene, cioè il pallone sta bene, ha vissuto momenti difficili sul tetto, stava quasi andando in ipotermia, l'ho trovato freddo, ma sono bastati subito 4 calci dati bene, si è ripreso e sta bene. Complessivamente, diciamo, ha vissuto un brutto momento, anche perché il tetto di quest'aula non è proprio bellissimo, soprattutto in questo periodo di inverno. Come dire, salire sul tetto porta sempre bene. Sospendiamo l'intervista per velati messaggi soviet subliminali. L'account è stato rimosso e però c'è Garulf che aveva trovato una notizia. Sì, perché per ricollegarci alla notizia importantissima che abbiamo dato ieri, che secondo me dovevamo dovevamo ridare, che era quella che la Apple stava mettendo le mani su tutti i porno domini, cioè i siti che davano porno che erano simili ai loro prodotti tecnologici. Quindi per esempio pornforiphones.com se ne è appropriato, non so con quale manovra legale, penso perché abbia tanti soldi, però noi ci eravamo ribellati, avevamo dato pure qualche sito dove si potevano trovare delle app porno per l'iPhone in maniera totalmente gratuita. Però la cosa è che ora anche il tubo YouTube ha deciso di prendersi tutti i domini che sono simili al suo, che attualmente viene usato per fare non ne ho idea cosa, e quindi niente, era giusto, non si può più andare su YouPorn, ecco. Era giusto per causarmi un pochino di timore, perché io ho letto la notizia e ho detto no, poi no, invece è soltanto YouTube, paura, eh. E anche youtube.com sembra, senza la E o senza, insomma, solo errori ortografia. Però se scrivi YouTube su Firefox ti apre la pagina di YouTube. Sì, YouTube, YouTube. Sì, io giusto perché ho da fare, il dovere mi chiama. Allora, per chi volesse contattare me o la mia associazione, ci può trovare sul riferimento internet www.salviamipalloni.org, e abbiamo anche l'account Facebook. Twitter ci sta sul cazzo, quindi ancora non l'abbiamo aperto. Buonanotte a tutti. Giusto, giusto, grandissimi salvatori di palloni. Niente, stiamo per passare il prossimo pezzo, sbaglio? Oppure no, si aprono pagine internet con Agurri se il vincitore di oggi rende, e YouTube senza la E. Mancano pochi secondi, adesso manderemo il prossimo pezzo che dedichiamo a Lethalman, che è un frequentatore assiduo della P2 ed è un fan accanito dei Mozilla Bros. Il prossimo sono i Cactus Bros Bill. Gin. But I know the girl and the new house man that done my brother in. Then he put the last clean shave on my poor brother Bill. They put the last clean shave. Running boy, they put the last clean shirts in on my poor brother Bill. They put the last clean shirt on my poor brother Bill. Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di Fuori Onda Radio e in differita su Radio Ceroma 105.7 ogni venerdì alle ore 17 e su transizionedifase.org ogni venerdì alle ore 20, martedì alle ore 20, ecco, un errore doveva comunque farlo. La palla è passata, siccome parliamo di palloni, di palle, la palla è passata dai ragazzi di Mozilla Bros a quelli di Banda Armata. Grazie, ragazzi, sì, al signore che oggi mi ha fatto una grandissima scorta di vino, gli ho detto quando era giovane, diciamo così. E Luca ha un vecchio di 90 anni, voglio dire, si è sentito un po' sfottuto, voglio, ma è buono. Si è scusato perché eri palesemente ubriaco. Ancora ora l'odore del vino si sente a distanza ravvicinata. Si sente agli ascoltatori a casa. Si sente puzza. Ascoltatori, si sente una voce, no? La puzza del vino. Abbiamo noi un altro stacco. Sì. Abbiamo altre 12 ore non stop di diretta. Però vediamo un anticipo. Se dalla rete è l'unica, provate a digitare www.youporn.com. Ma provate. C'è la torre. Cosa? Non filtrano. Ah, filtrano i porn. La censura di La Torre si abbatte sugli studenti dell'Unical. Comunque, cominciamo a parlare di cose un po' più serie. Da un paio di settimane abbiamo un nuovo governo, il governo Monti. In realtà avevamo anche il governo Montesano, però poi abbiamo cambiato in governo Monti. Uno dei primi provvedimenti che ha preso il governo Monti, a parte il decreto Roma Capitale, uno dei prossimi provvedimenti sarà quello di mettere una tassa sugli animali domestici. Ma dico, per esempio, anche i Luca Abate. No, Luca Abate no, solo cani, gatti, uccelli e tarli. Da questo si capisce che sei palesemente ubriaco, Gustavo. Io no. Quindi no, infatti Monti e il suo governo infatti sostengono che gli animali domestici sono un bene di lusso e che quindi devono essere tassati come tutti gli altri beni di lusso. Lasciamo stare i turpiochi che potrebbero costarci qualche denuncia. Già ne ho fatti io troppi durante le ultime puntate. E si stando in un'aula occupata ti preoccupi delle denunce tu? No, per niente. Comunque da tre monti siamo passati a un monte, è già qualcosa. Questi sono i tagli. Tre monti si è tagliato e diventato monti. Segnaliamo che il nostro regista Peppe Lounge si sta rivendica proprietà d'autore che non esiste. Che in quest'aula, ribadiamo, non esiste, è tutto copyleft. Copyright tu cazzo. Comunque, beh, lasciamo stare gli animali di Monti o di Tremonti o di Montesano. Parliamo di altro. No, ma su Monti, no? Io vorrei dire una cosa, giusto per capirci. Cioè, parliamo di Monti. Il governo tecnico, il governo di prima, no? I tecnici, possibile che, cioè, per esempio, Monti, no? Monti, prima, se voleva, non potevano rintracciarlo, cioè, tipo, nessuno aveva il numero di telefono. Il numero di telefono di Monti non l'aveva nessuno. Non ha il telefono. Ah. È tipo sull'elenco. No. Niente. Non è anche la mail. Niente. Perché è solo su YouPorn. Mi sembra strano, nel senso che non hanno potuto trovare nessuno che insomma riuscisse a fare in tutte. Poi a un certo punto sono usciti questi 12 cavalieri dello zodiaco, 17. 16. 17. Ed erano 17, uno senza portafoglio. No, uno è doppio perché Monti è ministro dell'economia e pure premier. Tipo Spider-Man. È Spider-Man. Ho capito. O Batman e Robin. C'ha le ali? No. Può essere. Non lo so. Ho capito. Comunque, prima di ricominciare a parlare di cose un po' più serie, forse Peppe vorrebbe mettere una bella canzone di quelle che ti raccomando io, ok? Vai Peppe con il Gogol Bordello. Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk. Now that I'm living and God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hossa, I see another immigrant punk. There is a little bugger mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ah, woo, woo, woo, woo, yo, I legalize me. Ah, woo, woo, woo, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. The trouble soul. So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk. Punk, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Allora, qua stiamo cercando il nostro banner e abbiamo il tecnico d'eccezione, diciamo, il tecnico grafico della puntata live che si sta inerpicando la parte 1, però noi in low density, altrimenti... Ecco. Detto ciò, io vorrei spezzare una lancia a favore del Soviet, ma io non vorrei... Ma il Soviet? Il Soviet, in generale, il concetto del Soviet, perché io mi rendo conto che tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando live nelle nostre frequenze... Cioè, non più, live, non più di 2,5 persone. Non più di 2,5 persone, ci sono molto più in aula oggi, che è la cosa molto più, fa molto più piacere, no? Praticamente, cioè, che ce l'hanno tanto col Soviet? Il Soviet è un'assemblea, cioè, lo vogliamo dire, è un'assemblea il Soviet, è una cosa tanto bella, è una cosa tanto... Niente, non le piace, la condivisione di intento, ognuno sa fare i cazzi suoi, questa è la... Quando... Non dobbiamo esattamente. Ok. Detta questa piccola precisazione che ci tenevo, perché ogni volta mi duole il cuore. Embriaco. Mi duole il cuore ogni volta. Parliamo di Fiat. Parliamo di Fiat, del signor Marchionne, del signor Termini Imerese, del signor Operaio. E del signor Bloccheremo i Cancelli, anche se vuoi. E del signor Picchetto. E del signor Picchetto. Che... E quindi è notizia freschissima, insomma, che è Termini Imerese. Ciao. Insomma, chiuda. Ecco, e insieme a Termini Imerese chiudono anche 2000 famiglie. Circa 1300 operai verranno mandati a casa. 1600. Ha detto 1600. E secondo la questura? 2. E secondo gli organizzatori? 1600 sempre. E secondo me? 2000, erano 2000. È chiaro. Dopodiché. Ma è un dato fatto. Adesso che si è perso tutto quanto, ovviamente il carrozzone dei sindacati si ci mette dappresso tutti quanti. No, appresso alla FIOM, che ha condotto una battaglia non fino in fondo, bisogna dirlo. Però almeno anche una cosa l'ha detto. Almeno ha fatto finta di... Almeno ha fatto finta. Insomma, nella sua logica, comunque è riuscita a veicolare determinati messaggi che erano quelli là di gentilmente stiamo andando allo sfacelo. Il modo di Marchionne non è il modo che salverà, no, le industrie italiane, anche perché abbiamo visto con questa crisi che c'è stata che le industrie italiane avevano bisogno di molto altro. avevano bisogno di tanti licenziamenti. Ecco, tanti licenziamenti e anche tanti pochi soldi. Ricordiamo che il governo, che è morto circa 2 settimane fa, aveva detto faciliteremo i licenziamenti per favorire l'occupazione. È chiaro, no? Ma è una cosa logica. Perché se tu licenzi. No, abbiamo un. Dicevi? Non fa una piaga questo discorso. Faciliteremo le castrazioni per aumentare le proli. No, il punto è: faciliteremo le castrazioni per aumentare i matrimoni gay, più o meno, sì. No. E la Nicky Vendola? No, mi sa che Ucazzo. Gesù Cristo. Ecco. Detto ciò, siamo perfettamente in linea, attenzione. E quello che è successo a Termini Imerese è che adesso che si è distrutto tutto quanto, che la Fiat ha detto che chiudiamo, CGL che hanno scioggiato tutto, ha preso la Fiom, c'è andata anche la Wilm, qual è l'altro? Film. La Film, insomma, Wilm sembra che è un cinema, no? Il film. Questo non è un film. No, questo non è neanche un paese per vecchi, direi. No, perché il governo tecnico, sappiamo bene. È un governo tecnico che ha l'età media di 63, dei giovincelli, ecco. La primavera. Sì. Dei signorini, insomma. Dei signorini, il più giovane ha 56 anni. Ah, beh, 56 anni, tutto. Tutto rispetto. Tutto rispetto. Poi c'è uno che ha una certa ricchezza, l'ha visto? No. Tanti. Non li conosco. Ricordiamo che tra i ministri c'è anche un ex professore dell'Università della Calabria. Infatti, il nostro amatissimo La Torre, il nostro rettore sultano dell'Unical, ne va fiero. Comunque, detto ciò, ci sono tutti i sindacati incarrozzati dietro le macerie dello stabilimento di Termini Imerese. E gli operai hanno detto una cosa, gentilmente: ya, devi andare a fanculo. Bravo. Però ci completiamo benissimo oggi. Come va? Sarebbe un bellissimo pianto del coccodrillo. E ha detto gentilmente fate quel discorso là che abbiamo detto prima, che non ripeteremo per causa censura e digos. Non c'è censura, digos significa niente. Sì. Detto ciò, maresciaca, tutto a posto, no? Non significa niente, praticamente gli operai si sono chiusi dentro proprio adesso. Hanno chiuso i cancelli, hanno detto, sapete cosa c'è? Un bacino scima. Ecco, e caso ne vendiamo noi forse. Il prossimo passo. Forse è un passo che ancora è troppo lontano dall'essere compiuto. Però se dovessero farlo, noi non saremmo troppo infelici. Comunque, finalmente diciamo che c'è qualcuno che prende coscienza del fatto che non c'è bisogno di un manager per fare il proprio lavoro, o mi sbaglio? No, assolutamente no, ma già in passato tantissime volte gli operai hanno occupato le fabbriche, hanno fatto tutti da soli, senza manager o capizzoni del caso che insegnassero loro come e cosa si deve fare. Eh sì, e poi comunque c'è bisogno dell'organizzazione, insomma. E comunque, diamo spazio a nuove voci. Le voci scappano. L'altra nuova che sta scrivendo, ciao. La fuga delle nuove voci. Ci sono dei messaggi alla lavagna per Peppe. A proposito di voci, cominciamo ad annunciare che nel caso dovesse essere ritrovato, fra poco ai nostri microfoni ci sarà il cantante. Quindi stiamo cercando il cantante. Sì, sì. Quindi dobbiamo peccato che non è mercoledì. Il manager del cantante, anche lui è andato disperso. Tutti dispersi. Non lo so perché. Il cantante, fra poco ci rivolgiamo a chi l'ha visto. Quindi un saluto agli amici che ci stanno ascoltando sulle frequenze web di Fuori Onda Radio e su www.fuoriondaradio.altervista.org. O mi sbaglio? Più o meno è questa la cosa. Sì. Poi un saluto senza www. Ah, ok. Poi c'è mai su cazzi www. Ma è però il www. Cioè, è l'unica cosa che so. Comunque, detto ciò, un saluto a quelli che ci ascolteranno in differita su Radio C Roma 105.7 alle ore 17 domani. Cioè oggi per loro. Oggi. Per loro è oggi, per noi è domani. È chiaro. Vabbè, su transizionedifase.org il martedì alle 21. Alle 20. E soprattutto salutiamo chi ci segue dall'Umbria, la nostra scemiliana. Ecco, e salutiamo il nostro tecnico Peppe Lange, che stasera è particolarmente incazzato, ci guarda male. È ritornato in versione tigna, il nostro ministro della difesa. Ecco, quindi un saluto finale. Un saluto ai prossimi staffettisti, ovvero sia, ridiamo la parola ai Mozilla. Mozilla Bros. Ai Mozilla, Peppe, facci sognare. Allarme. People try. to town. Talking about my generation, just because we get around. Talking about my generation, things they do look awful. Talking about my generation, I hope I die before I get old. Talking about my generation, just my generation, just my generation, baby. Why don't you all fade away? Try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say, trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation, things they do look awful cold. Talking about my generation, I die before I get old. Ora, ora. Allora, oh, ma siamo tornati. Secondo me l'hanno sentito già la prima volta. Premuto ora il bottone, quindi non siamo tornati da prima. Sì, sì, non svegliamo i trucchi della regia. Allora, sempre la parte nerd di Mozilla Bros. Voleva parlare un pochino di un argomento di cui parliamo spessissimo, si può dire, che è appunto la censura in rete. Cioè, non era Tarlo la parte di cui parliamo sempre. Oltre a Tarlo, è appunto la censura in rete. Come sappiamo, la censura in rete, abbiamo detto più volte, può essere. Mi interrompono, però vai. Come sappiamo, noi anche nei Mozilla Bros. Voi avete uno che comunque ha subito la censura in rete. Ma anche non in rete. Magari l'avessi subito. Ok, raga, chi vuole parlare? Posso parlare? Vai, vai. Grazie. Allora, appunto, parlavamo della censura, che può essere veicolata, questa censura, attraverso diverse metodologie. Può esserci imposta, alcune più efficaci, alcune meno efficaci. In realtà quasi tutte le forme di censura possono essere aggirate. L'unico problema è che non tutti hanno le conoscenze, oppure le conoscenze appunto per aggirare la censura sono anch'esse censurate. Pensate per esempio a un ragazzino di 15 anni che accende il computer in Egitto e va sulla sua la pagina politicamente non accettata dal suo regime. Cosa gli appare? Gli appaiono due poliziotti in flash che gli dicono: guarda, tu stai guardando un sito che non dovresti guardare, aiutaci a segnalarne altri. Bene, capite che sarà difficile per questo ragazzo fare la ricerca Google ho scritto qual è il proxy che mi permette di uscire su internet senza censura, perché no, nessuno gli dirà mai cos'è un proxy, eccetera. Per questo una cosa importante è comunque creare in noi stessi una sorta di consapevolezza della rete e quindi degli strumenti che ci consentono di aggirare queste forme di censura che possono esserci messe da qualsiasi governo, anche questi governi democratici come il nostro. Per esempio, pochissimo tempo fa siti di peer-to-peer venivano oscurati, come Pirate Bay viene ancora oscurato. Va bene, comunque senza prendere per acqua santa le nostre notizie, l'ho sbloccato io. Se non è così fa niente, diciamo una notizia sbagliata, non c'è bisogno. Oltre ai governi, anche come abbiamo già accennato un pochino prima, vedremo prima anche che l'università ci censura. L'unica cosa che volevo dire è che ci sarebbe una forma di censura ancora più potente di quelle che possono fare i governi, e vuoi non vuoi anche abbastanza più silente, che potrebbe accadere, sperando che non cade già, è quella che potrebbero fare i motori di ricerca. Come vedete voi, prima di accedere a qualsiasi pagina Google, di solito un utente medio, ma praticamente chiunque, passa per un motore di ricerca. Bene. Per Google, diciamo. Allora, quindi immaginate solo soltanto se Google per caso viene obbligato, come forse gli hanno intimato qualche difensore del copyright, di fare con i siti di Blogspot o come in Cina, che Google semplicemente non faccia apparire i siti web che manifestano informazioni scomode per un qualsiasi gruppo di persone che non te le voglia fare vedere e che ti voglia censurare. Quel sito è praticamente invisibile, diventa un sito invisibile, difficilmente da raggiungere da chiunque. Però, come avevamo detto, ci stanno parecchi strumenti per agire queste cose. Per esempio, uno dei filtri più facile a girare è il filtro dei DNS, per esempio, dove, vabbè, se non sapete cos'è un DNS, cercatelo su Google, che non vi censura la cosa. Se non sapete cos'è un DNS, non ci avete ascoltato mai, praticamente, quindi non ve lo ripetiamo. Quello si cambia, si agisce semplicemente cambiando DNS, usando alcuni come gli OpenDNS. Un altro filtro interessante, per esempio, è quello su IP, dove invece vanno a bannare proprio gli IP. In questo caso praticamente dovremmo utilizzare per esempio un proxy. Un proxy è semplicemente un sistema che praticamente fa la richiesta al posto nostro, e quindi se l'IP censurata è per esempio quello del sito X, noi non stiamo visitando X ma stiamo visitando Y, per essere che è un proxy che visita, diciamo, rigira la nostra connessione verso il sito X e ci restituisce i risultati. Per esempio, non pensate che solo i regimi stiano facendo così, sì, anche la nostra Unical, per esempio, abbiamo per caso prima scoperto che per esempio filtra YouPorn. Oh my god. Cioè, se voi dall'Unical, per qualsiasi motivo, magari perché studiate antropologia animale o sociologia o qualsiasi altra cosa, volete andare su YouPorn, mi serve andare su YouPorn, non potete. Per i nostri ascoltatori che adesso sono all'Unical e vogliono andare su YouPorn, per esempio, basterebbe usare un proxy web semplice come Hide My Ass, che non garantisce l'anonimato ma permette di aggirare queste cose. Ma significa nascondi il mio culo. Tra l'altro su YouPorn, resta in tema. E per esempio potrete visitarlo tranquillamente attraverso questo. E se siete tecnici del suono, per esempio, potreste trovare suoni simili. Quindi ricordatevi che la censura è una brutta cosa e che aggirarla a volte può dare grandi soddisfazioni. E io intanto ho fregato la sigaretta, però è chiaro questo. Bene, lasciamo stare cose porno, mandiamo un pezzaccio che mi suggerisce Pepe Blues. Sì, dopo ci sarà chiaramente una bellissima sorpresa che non diremo cantante. Comunque c'è un pezzo che mi suggerisce Pepe Blues e che ci suggeriscono i nostri amici di Pepe Lunch, va bene, precisa Lunch. Aspetta, facciamolo dire a lui. Lunch. Perfetto, Lunch. Un pezzo che ci hanno suggerito i nostri grandissimi Paolo e Stefano di Petronà. Jimi Hendrix, come on. People talking but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you baby like a mine of love gold. I'm all sure let the good time go. Hey. People live and make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Hey. If it's understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey, oh, let the good time. Tutto quanto. E allora ci siamo qua. Adesso ritorno io, il pesantissimo. Adesso facciamo una ritorniamo diciamo alla nostra dimensione naturale, diciamo così, ritorniamo al nostro diciamo fiero sovietismo, diciamo così. E praticamente parliamo di RDT, la nostra cara Rete in Difesa del Territorio, che in questa settimana ci ha fatto dormire davvero poco, però ci ha dato grandi soddisfazioni, bisogna dirlo, bisogna dire per esempio la grande giornata di lunedì, come non commentarla, signora Abad. Ma il fatto che chi la commenta alla fine sarà la persona stessa che è stato ripreso da, cioè anche riconosciuto persino oggi da molte persone come star ormai. Certo, per chi volesse l'autografo si può rivolgere al mio portaborse Luca Abad. Ecco, e adesso sta arrivando il cantante. Io non mi sento di fermarlo. Ma quale pezzo ci farai? Bene, si avvicini, si sieda. Ecco, prego. E adesso. Chiaro, qua, noi abbiamo qua uno dei massimi esempi della lirica, diciamo, cosentina, se non regionale, direi, no? Ecco, qua ci fa internazionale anche. Ecco, che pezzo ci farà ascoltare? Emozione di Lucio Battista. Addirittura, altre canzoni. Un medley. Di altre canzoni inglesi. Anche inglesi. Ecco. No. Quindi, no, prego, è tutta tua, facci un 3 minuti di assolo, prego. Grazie, buonasera. Posso dedicare? Dedica a chi vuoi. A Claudia e all'altro, Teresa e poi altro, basta. Ed Elisabetta. E a Tarlo. Tarlo pure. Comincio. Vai, comincio. Seguir quegli occhi nero sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. Una rosa rossa, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Prendere a pugno un uomo perché è stato un po' scortese, sapendo quel che bruciano sono le offese. Stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi. Emozioni, tu chiamale se vuoi. Emozioni. Adesso però io volevo sentire anche un pezzo in inglese, gentilmente, cioè per me. Vorrei ricordare che il cantante è senza testi, quindi tutto a memoria, eh. I love you never say, I love you be silence, my fear, I'm out of way, all devil say, silence, my way, I'm out of way, all the children, my way. My way, show it a my way. Grazie, un saluto ai tuoi fan, un saluto a tutti i tuoi fan. Un saluto a tutti i fan, a Teresa, a Claudio. Tarlo e Garolf. Poche ne c'è più. Google. Natale, quello che mi ha lanciato. Il manager. Jessica, Fabio, Rossella. A posto. Detto ciò, Peppe, mettici un pezzo e dopo facciamo uno stacco sull'RDT che mi sembra, no? Vai. E ricordiamo con questa trasmissione Freddie Mercury, e oggi sono 20 anni dalla sua morte. Freddie, ti ricordiamo sempre, sei sempre nei nostri cuori. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Ecco, chiudiamo sulla rete in difesa del territorio. Quella che ci stavamo dicendo prima, dicevamo che insomma è stata una settimana intensa e sarà ancora domani, perché sia all'Unical sia in tutta la Calabria ci sono due eventi significativi. Noi abbiamo avuto una settimana universitaria stracolma di passarelle e passarelline, di politici e politicanti di turno, da il signor Pugliano all'organizzatore delle scuole calabresi al signor Pirillo Low, che però no, Piri Low non c'è stato all'università, quella è l'altra situazione. L'altra situazione è Piri Low. Piri Low, il signor Piri Low, è venuto dall'alto del Bruxelles a portare con la sua commissione europea in giro per la Calabria, dicendo che insomma si doveva rassicurare i cittadini. Poi ci hanno tacciato, perché poi noi abbiamo detto: ma come rassicuri i cittadini, signor Pirillo? Tu fai venire la comunità europea qua e non metti in primo piano quelle che sono le tragedie di tutta la Calabria. No, la commissione ha un programma che è fantastico da questo punto di vista, un programma che è partito oggi dal fiume Oliva, poi dal fiume Oliva si è spostata a San Francesco. Questa è una commissione per l'ambiente, sia ben chiaro, no? Perché ovviamente per questo ne stiamo parlando. Ma detto, sono partito dal fiume Oliva, poi a San Francesco, però all'oasi di San Francesco, non so come si chiama sinceramente come cosa, comunque San Francesco a Paola, e poi però andavano anche a visitare a Rosarno, la centrale biomasse di Rosarno. Ecco, insomma, questa è una questa è una commissione europea, dicevamo, che è appunto una commissione europea ambientale, che è venuta per guardare quella che è il territorio e cosa come, in che condizioni versa insomma la Calabria. Ecco, Pirillo, facendo il suo viaggetto, l'ha portati oggi sulla valle del fiume Oliva, assieme al grande Arro, che è il responsabile, se non mi sbaglio, dell'ARPACAL, no? Il tecnico dell'ARPACAL, che dopo aver fatto milioni e milioni di carotaggi, come abbiamo letto, anzi visto oggi più che letto al telegiornale, al TG3, dopo aver fatto milioni di carotaggi, cosa ha detto? La radioattività della valle del fiume Oliva dipende dai residui della nube di Chernobyl. È ovvio, c'è, cioè, la nube di Chernobyl sarebbe partita da Chernobyl, ha preso insomma la Ionica l'Adriatica, poi è arrivata sulla Ionica, poi si è spostata sulla Tirrenica. E allora, una precisazione: in realtà qualsiasi territorio ha un limite minimo di radioattività dovuto a Chernobyl, e da lì si misura la radioattività. Però sulla valle del fiume Oliva, come anche nella cava che c'è, che è il grandissimo Arru con le sue arringhe, dicevi in questa maniera, arringhe, e il fatto è che in realtà erano superiori a quelli di Chernobyl. E qui sta la domanda: Arru, ma tu cosa fai nella vita? Il bello è che poi nel suo articolo a naso ha detto che a naso era chiaro che insomma quelle cose c'erano. Si sente a naso che sono radioattività di Chernobyl, è chiaro. Detto ciò, dopo questo sposto nella valle del fiume Oliva, sarebbero andati stamattina a San Francesco, prima di Paolo, perché giustamente poi, ma quelli sono tedeschi e francesi, che insomma, che olandesi, cioè tutti i protestanti che tu porti, ma comunque al di là di questo, dopodiché giustamente, perché la commissione ambientale deve passare dal santuario di San Francesco, mi sembra chiaro. Dopodiché sono andati a Rosarno, domani saranno alla Pertusola e la cosa si chiuderà in gran bellezza alle cantine Cirò. Noi vi lasciamo, salutiamo i nostri amici Mozilla Bros, che insomma un saluto a Fuori Onda Radio e Banda Armata, che questa trasmissione fantastica fanno Gustavo, Luca, Pippone, Pierpaolo e tutti gli altri. E niente, vi ringraziamo per l'ospitalità che ci avete dato mentre gli altri giocano a pallone di fuori. Vi aspettiamo tutti quanti per la cena sociale. Adesso il menù, non sappiamo cos'è il menù, comunque vedo una quadara di pasta incredibile. Tu stati zitto, perché ha cucinato la Bip. Tu che cosa hai preparato? Qualcosa? Il grandissimo Paolo ha preparato zucchine con, mamma mia, qualcosa di fantastico. Infatti solo la teglia ispira fame. E poi ci sono tre altre cose piene di insalata, cose buone. Insomma, scusa, devo cucinare anch'io qualcosa, però brutti incontri nel pomeriggio mi hanno impedito. Insomma, mentre gli altri stanno giocando a pallone fuori, ridò la parola e ringrazio i ragazzi di Banda Armata. Ridò la parola a Gustavo e Luca, che concluderanno questa trasmissione con l'ottima musica di Peppe Lunch. Grazie a tutti, noi siamo i Bonzilla Bros, ci potete trovare ogni mercoledì. E io mangiamo! Sì, Pierpa, ci potete trovare ogni mercoledì alle 19 in puntuali su Radio Ciroma 105.7 www.mozillabros.com. Grazie. Saluti, saluti a Lorenzo, saluti a Natale, saluti al grande cantante, saluti a Marco, saluti a Marco Garulf, saluto a Marco Nosendai, saluto ad Andrea, saluti a Tarlo, saluti a tutti quelli. Per non dimenticare qualcuno, salutiamo tutti quelli che sono intervenuti nella nostra trasmissione. Salutiamo il nostro grande tecnico che adesso ci tira una fucilata se non chiudiamo. Ciao, bene. Aspettate un attimo, non posso lasciare gli occhiucci della nostra lontra così. Ma ancora dura la trasmissione? Ah, stiamo chiudendo. Ah, oi caro. Stiamo chiudendo, stiamo salutando. Ah, no, siamo appunto. Mangiamo, porco. Mangiamo. Stiamo vedendo che alla fine qua abbiamo un utilizzo attivo della Pirate Box. Sono molto contento di questo. Devi solo spiegare come si riesce a caricarlo. Eh sì, è un pochino da aggiustare. Noi aspettavamo un'utenza minima di 2 utenti per cercare di aggiustarlo. In realtà non funzionava. Volevamo vedere quando se ne accorgeva la gente e c'è quando aveva iniziato a usarlo. Però in realtà c'era un sacco di film che prima non c'era. E ora vai con la sigla, Peppe. Salutiamo tutti. Razzinga. Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici Razzinga, Razzinga. Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se il nemico prega è già finita, la chiesa batte in indice, Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Si rialza, sempre vincerà. Razzinga, Razzinga, rosario atomico, Razzinga, lama del diavolo, Razzinga, doppio amen. Forte, con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma. Non c'è chi è forte più di te, Razzinga, Razzinga. Ha la mente di Lutero, ma tutto il resto fa da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Se hai bisogno puoi invocarlo, con la Bibbia apparirà. Santa, lama diabolica, doppio rosario.